Your headlights are on. E sono le ore 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via internet. Inizia prove tecniche di trasmissione che andrà avanti sino alle 22.30. Questa sera 25 o'clock non andrà in onda. Ricordiamo la nostra campagna di crowdfunding, la nostra campagna di tesseramento, 30 euro per 1000 ascoltatori, il nostro radioabbonamento, la cui adesione si può fare andando sul nostro sito, testé enunciato, c'è un banner specifico e cliccandoci sopra si scoprono le varie modalità di adesione. Saluto Maya e Nicolocci in Sardegna, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Bergamo Francesco Cornello, Massimo Oders, Mascheroni naturalmente di Oders, Alberto Clipper, Simone Scalise di Audio Chaos. Sta per uscire o già è uscito un nuovo lavoro che presto ascolteremo da queste parti. Audio Chaos, ricordiamo, progetto Dark Wave proveniente dalla Calabria. A Cortina d'Ampezzo c'è Tabula Rasa, Giulia e Alessandra qui a Roma. Omicidio nella persona di Ant Christ che ci sta ascoltando da Firenze. Poi Like Awake, Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante. Un saluto a Sisto Palombella, ormai da queste parti lo conoscono in tanti. Lui suona accordion e fisarmonica e fa ottima musica. Come ogni mercoledì sera si va un po' ad analizzare questa compilation che esce per la Reverse Alignment, un'etichetta diciamo rilevata dal Raffaele Pezzella, meglio conosciuto come Unexplained Sounds Group Label, la 8 Tower, la Zero K, eccetera, eccetera. Etichetta di origine svedese, quindi questa compilation dal nome New State of Flux, non a caso, ospita molti artisti provenienti proprio dalla Scandinavia. Ce ne ascoltiamo un paio questa sera, ossia Discrepante con la ritualistica Since Monday e poi Mats Unden con Unfold. E dopo la ritualistica e mantrica traccia riguardante Discrepant, progetto svedese, si rimane sempre da quelle parti con Mats Unden, questa è Unfold, atmosfere abbastanza diverse, più intenzione. Thank you. E intanto si sono aggiunti Eugen Vintras, che ci sta ascoltando da Venezia con il suo progetto, lo ricordiamo, Gin. Francesco Monaci, Smilzo, che a breve andremo ad ascoltarci. Mariano in quel di Berlino. Anche per questa sera dunque un contributo che ci ha donato questa compilation dal nome New State of Flux, due progetti scandinavi. Ricordiamo con la supervisione di Raffaele Pezzella. Noi andiamo avanti, dunque l'abbiamo detto, una ottima collaborazione tra Cristiano Bocci e Smilzo, vero nome Francesco Monaci. Per un lavoro che porta il nome di Eight Electronic Mantras, vero e proprio manifesto di intenzioni, dei mantra elettronici particolarmente ossessivi. Anche qui c'è un certo gusto per il ritualistico che possiamo constatare in questa traccia dal nome Sun. Cristiano Bocci non si smentisce. Oltre che suonare dell'ottima musica, essere un eclettico musicista che può andare dall'ambient a atmosfere più crude fino a un retrogusto jazz, si circonda anche di ottime collaborazioni, di ottimi musicisti, in questo caso Smilzo, ossia Francesco Monaci, che scopriamo che di solito fa elettropop, a testimonianza anche dello stesso Monaci di essere un musicista eclettico e aperto. Questo 8 Electronic Mantras lo si può trovare in un sito, una net label dal nome Zenapole, dove peraltro si può anche scaricare in free download l'intera interessantissima opera. Cristiano Bocci molto attivo ultimamente, ci saranno presto nuovi lavori anche come Chemical Resistance e collaborazioni varie. Vado a salutare anche Christian, amico qui di Radio Onda Rossa. Il buon Antichrist, puntuale nelle sue analisi della musica che mando qui da Radio Onda Rossa, ci ha ricordato anche che in qualche modo ha trovato somiglianze in Fennez e Pan American attraverso queste note di Cristiano Bocci e Smilzo. Quindi di collaborazione in collaborazione, un'altra efficacissima tra Lorenzo Abattoir e Giovanni Lami, si chiama Krishnamurti. Qui invece viene usato un drone proprio d'origine indiana, una macchina molto particolare, che viene manipolata da questi due artisti che hanno prodotto questo Through is the Enemy. Qui le atmosfere, le strutture si fanno più ruvide. Ne è testimonianza diretta la traccia che chiude questo lavoro dal nome Meditation is Evil. Lorenzo Abattoir, Giovanni Lamin, Krishnamurti, progetto proveniente, o meglio, Lorenzo, lo ricordiamo, piemontese, mentre Giovanni Lami è un musicista proveniente da Ravenna. Parecchi lavori al suo attivo che cominceremo ad ascoltare presto da queste parti. Ed entrambi hanno usato questo strumento che creava e che crea drone dal nome Shruti Box. Il buon Antonio ci ricorda il congresso post-industriale a Pordenone, festival del Old Europa Café, etichetta che da queste parti è assai nota. E avremo il piacere di anche di incontrarci col buon Antonio e spero anche con altri magari che ci stanno ascoltando adesso. Suoneranno Arzat Schia e Necrofonia, Siginum S e Brighter Death Now. Quindi quattro concerti molto interessanti a Pordenone sabato prossimo. Buonasera Wurnus Island, la gloriosa scuola industrial piemontese alla quale anche Wurnus Island appartiene. Lo stesso Lorenzo Abattoir suona in questo progetto. Expanding. standing entirely still, giving the impression of a waiting. Then it plummets into the depths of this blue fox and turns the room into the sea. Thank you. Gli ultimi 8 minuti li abbiamo dedicati a un progetto al femminile a noi molto caro, che risponde al nome di Pusey Mary. Quest'ultima uscita di un mese fa è You Must Have Been Dreaming, e devo ringraziare Bon Antichrist che mi ha messo a conoscenza di questa uscita, che sinceramente mi era sfuggita. E chissà se questo tormentato intimismo sarà una svolta, diciamo, permanente nella carriera di Pusey Mary. Disco più smorzato, sussurrato, naturalmente inquieto. Leggo anche che le sue frequentazioni con Drew McDowell, ex dei Coil, probabilmente ha influito magari sul modo di comporre. Fatto sta che attendiamo anche un imminente lavoro per vedere se poi ci sarà un ritorno alle vecchie sonorità oppure no. Comunque questo ultimo lavoro è un lavoro eccellente. Personalmente non lo ritengo a livello dei primissimi album, ma comunque lo consiglio caldamente agli affezionati di questa artista danese. La ricordiamo, Frederick Hofmeyer, ormai più di 10 anni di attività per lei, collaborazione con Locke Rabeck ed altri personaggi. Seguiremo dunque le sue gesta che la porteranno anche qui a Roma il prossimo 19 maggio, per la seconda volta qui nella capitale. Si cambia radicalmente storia, andiamo in Spagna. 2 anni fa usciva Cinetica per quanto riguarda gli Esplendor Geometrico, che in quell'anno poi fecero anche un altro lavoro che andava a festeggiare i 40 anni di esistenza di questo veramente combo storico nel campo dell'elettronica e nell'industrial più tribale. E da Cinetica ci ascolteremo Costruzione Transformadora e Regulazione Percussiva.